Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Oggi vi parliamo da Bologna, sapete tutti che in questi giorni è in corso il Motor Show e quindi siamo venuti anche noi a dare un'occhiata per capire cosa c'è di nuovo tra i motori, ovviamente per quanto riguarda l'ambiente. Ne parleremo prossimamente in un'altra puntata di Respiro che sarà completamente dedicata a questo argomento. Oggi però non dimentichiamo che siamo in periodo ormai quasi natalizio, periodo quindi di regali, che ci sia crisi o no. Magari quest'anno di regali ne farete pochi, magari ne farete di poco dispendiosi, ma insomma qualcuno vi capiterà di farne e allora non dimenticatevi anche in questo caso dell'ambiente. Così come ha fatto la Clementoni, ad esempio, notissima azienda produttrice di giochi per bambini e ragazzi, che quest'anno presenta energie alternative. Che cos'è? È un gioco in scatola con il quale si può imparare non solo cosa sono le energie rinnovabili, ma si possono perfino mettere in pratica le energie rinnovabili. Infatti nel gioco è compresa una casa che sfrutta un vero e proprio pannello fotovoltaico per generare acqua calda, luce ed energia elettrica. E poi c'è anche una macchinina che si muove con l'energia solare e una turbina ad acqua. Sentite cosa ci racconta Giovanni Clementoni, amministratore delegato appunto della Clementoni. Lo stesso strumento fotovoltaico può essere montato su una macchinina che si sposta da sola. E dall'altra parte c'è poi una turbina invece che può essere messa sotto l'acqua, sotto il rubinetto dell'acqua, che fa muovere una dinamo che poi alimenta la casa, esattamente come succede con le centrali idroelettriche. È molto bello perché in pratica il bambino può mettere a confronto tutti questi sistemi e vedere che cosa ottiene. Certo, questo è l'obiettivo, certo. Insomma, di farli sperimentare. Per noi è importante che evidentemente attraverso questa magia della produzione di movimento o comunque di energia attraverso la luce, il bambino capisca che oggi è necessario in qualche maniera porsi il problema che l'energia ha un costo, che non è solamente un costo economico, ma ha un costo sociale, c'è un costo ambientale. Questo è molto importante. Quindi voglio dire, io una cosa che ho pensato facendo questo gioco, meglio parlando con i ragazzi che stavano preparando questo gioco, è che effettivamente quando io ero piccolo mi facevano spegnere la luce perché il consumo impattava sulla bolletta che pagava poi mio padre, e oggi i bambini oltre quello devono pensare che questo ha un impatto invece di tipo ambientale estremamente importante, ed è una coscienza nuova che evidentemente quando eravamo piccoli noi non era forse necessaria. Senta, vedo che il gioco è diretto dai bambini dai 9 anni in sì. su, ma da un punto di vista pratico hanno bisogno, per mettere in atto tutti questi procedimenti che si possono fare sulla casa, di aiuto di adulti o è una cosa che riescono a fare più o meno da soli? Un minimo di manualità è richiesta, però vuol dire un bambino di 8-9 anni ce l'ha. È assolutamente in grado, è chiaro. Poi sai, sono quei giochi che quando arrivano in famiglia normalmente i genitori, in particolare i padri, apprezzano anche la partecipazione, viene un po' spontanea insomma la cosa. Quindi insomma è un gioco da fare in famiglia. È una cosa da fare in famiglia, di fare con gli amici, ed è un gioco comunque curioso da un certo punto di vista, no? Cioè si costruiscono delle cose, degli ambienti, e poi questi ambienti hanno un fine vita. Pratico, beh, esatto, una vita, un fine pratico. Voi l'avete pensato anche magari per le scuole? Ma sa, i nostri giochi sono tutti a sfondo educativo, sia quelli dedicati ai bambini molto piccoli, a quelli un pochettino più grandicelli, e anche questi che evidentemente sono dedicati ai bambini età scolare. Le scuole normalmente ne fanno uso in maniera indiretta, nel senso che noi non pensiamo a un insegnamento in aula. È chiaro che è un materiale che didatticamente è assolutamente utilizzabile ed ha una scientificità comprovata e parla il linguaggio evidentemente dei bambini, questo è evidente. Senta, c'è tanta tecnologia in questo gioco perché comunque voi fornite una serie di apparecchiature, dove le producete, come le avete poi dopo? Ma è evidente che tutto è, oltre alla affidabilità, tutto è anche corrisponde a requisiti di sicurezza che sono imprescindibili oggi evidentemente all'interno, sì, soprattutto perché vanno in mano dei bambini, poi quindi è evidente, quindi i voltaggi in gioco sono voltaggi irrisori e anche gli amperaggi, quindi la capacità in qualche maniera di movimento è una capacità di movimento del tutto dimostrativa. I materiali vengono reperiti un po' in giro, gli specchi fotovoltaici vengono probabilmente dalle produzioni di serie di calcolatrici o cose di questo genere qui, che vengono fatte probabilmente in Oriente, e i motorini elettrici sono dei motorini elettrici normali che si reperiscono un po' ovunque, e poi c'è tutta la componentistica invece specifica, che invece è una componentistica che facciamo qui, cioè specifica al gioco. Per gli adulti invece il Natale può essere l'occasione di concedersi o fare qualche regalo tecnologico, o comunque l'occasione di cambiare qualcuna delle apparecchiature che si hanno in casa. Questo significa buttare via gli elettrodomestici o i telefonini vecchi che abbiamo. Sono rifiuti particolari, si chiamano RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, e vanno smaltiti correttamente. Attualmente sono circa 1 milione le tonnellate di televisori, PC, telefonini, piccoli e grandi elettrodomestici, giocattoli e lampade fluorescenti che ogni anno giungono a fine vita in Italia e diventano quindi rifiuti. È un quantitativo rilevante, soprattutto in considerazione dei volumi e del potenziale inquinante delle sostanze contenute in questa tipologia di rifiuti, che è destinata tra l'altro a crescere del 38%, si stima, entro il 2020. Giorgio Arienti è il direttore generale di Ecodom, consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici, che è un sistema collettivo nazionale che gestisce il trasporto, il trattamento, il riciclo, lo smaltimento degli elettrodomestici a fine vita. Ci siamo proprio chiesti che tipo di impatto sull'ambiente possa avere il corretto riciclaggio degli elettrodomestici, in particolare dei frigoriferi. Come è noto, i frigoriferi contengono una sostanza, un gas ozono lesivo, il CFC, che ha un impatto sia sullo strato dell'ozono sia dal punto di vista climalterante, quindi in termini di emissione di CO2 equivalente. Abbiamo commissionato a Ambiente Italia, un istituto di ricerca, un'indagine specifica a questo tema, e ci siamo accorti che se tutti gli elettrodomestici, i grandi elettrodomestici che ogni anno vengono dismessi, fossero correttamente trattati e quindi fossero sottoposti a quel trattamento che prevede l'intercettazione delle sostanze lesive, delle sostanze inquinanti, il beneficio per l'ambiente sarebbe rilevante. In termini di riduzione delle emissioni climalteranti, quindi in termini di CO2 equivalente, è circa il 3,5% dell'impegno che l'Italia si è presa col protocollo di Kyoto di riduzione di emissione di CO2 da qui al 2020. Poi c'è un altro aspetto estremamente rilevante, che è il fatto che circa l'80% di questi elettrodomestici sono costituiti da materie prime che possono essere riciclate, cioè reinserite nel ciclo produttivo. Trattasi di alluminio, di rame, di acciaio, di plastica, di vetro, che è un peccato sprecare, è un peccato buttare, soprattutto in questo contesto. E anche da questo punto di vista, oltre al beneficio di poter riciclare, cioè di reinserire nel ciclo produttivo, il beneficio è in termini di impatto ambientale, perché da un punto di vista di dispendio energetico è molto più conveniente riciclare piuttosto che andare a ricavare materie prime dal minerale sostanzialmente. Ingegnere, però da quando per la prima volta ci sentimmo 1 anno e mezzo fa le cose sono comunque cambiate, cioè ora si comincia a leggere ad esempio oneri RAE inclusi quando andiamo nei negozi. Che cosa significa questa dicitura? Ma significa innanzitutto che dal 1° di gennaio di quest'anno il sistema RAE è partito, i sistemi collettivi Ecodom e gli altri sono all'opera, serviamo oggi già il 70% della popolazione italiana, quindi circa 40 milioni di persone, lavoriamo da circa 2600 centri di raccolta, isole ecologiche, disseminate qua e là in Italia, e da queste isole ecologiche abbiamo già ritirato circa 60.000 tonnellate di RAE. Quindi il fatto positivo, estremamente positivo, è che dopo anni di attesa dovuti alle lungaggini con cui è stata recepita in Italia la direttiva europea, il sistema è finalmente partito. Devo dire anche con un trend di crescita, con una fase iniziale molto vivace, siamo passati da zero alle cifre che dicevo prima in pochissimi mesi. Forse l'aspetto delicato viene ora, nel senso che nei territori che già serviamo è necessario che gli enti locali che si occupano della raccolta presso il cittadino prima di noi, e in futuro anche i negozi che a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di ritiro uno contro uno dovranno occuparsi anche loro della raccolta, è necessario che questi soggetti raccolgano di più di quello che raccolgono oggi. E invece nei territori che ancora non serviamo è necessario che nascano dei centri di raccolta, è necessario che vengano create delle isole ecologiche. Questo secondo aspetto è un po' più difficoltoso, richiede degli interventi strutturali, richiede degli investimenti da parte degli enti locali, richiede di occuparsi della raccolta differenziata e purtroppo, come è noto, in alcune zone d'Italia abbastanza macchia di leopardo. Tra l'altro la raccolta differenziata non è la priorità numero uno. L'obiettivo che la direttiva italiana, la direttiva europea prima, il decreto italiano assegna è quello di raggiungere i 4 kg per abitante anno. Oggi siamo fermi a circa la metà. La revisione della direttiva europea aumenterà ulteriormente questi obiettivi, questi traguardi di raccolta, e il nostro paese è abbastanza in ritardo. Bisogna potenziare la raccolta differenziata, bisogna fare di più, bisogna che i soggetti che si occupano di questa fase, che sono gli enti locali e in futuro i negozianti, attivamente si adoperino per raccogliere i RAE. Perché se non c'è la raccolta, evidentemente poi non c'è il trattamento, poi non ci sono i benefici sull'ambiente, cioè la catena che viene a valle della raccolta dipende dalla qualità, dall'intensità della raccolta. È necessario anche un cambiamento di mentalità, un cambiamento di abitudini, un cambiamento culturale. In Italia non siamo ancora consapevoli del fatto che il riciclo